Allora, pronto, dici. Pronto? Sì, sì, siamo, ti stiamo ascoltando, vai. Ciao, ciao a tutti, buona giornata a tutti. Siamo tantissimi, sono arrivati i colleghi da Sicilia, dalla Puglia, dalla Calabria, hanno preso chi il treno, chi la nave, chi l'aereo stanotte, e siamo tantissimi. Stiamo invadendo Roma, stiamo dicendo tutti insieme no ai tagli e ai tagli ai nostri stipendi finalizzati ai premi per la nostra dirigenza. Noi ci chiamiamo CLAS, siamo lavoratori autoconvocati, e ci chiamiamo WILL con la doppia V. Abbiamo rovesciato il nostro logo, il logo di TIM, per scrivere viva i lavoratori, perché la nostra azienda è un'azienda a testa in giù, come un sacco che viene praticamente depredato e viene svuotato da diversi anni. Ogni volta che cambia la dirigenza, questi capitani coraggiosi che spolpano Telecom, Alitalia, Almaviva, c'è uno sfruttamento totale. Quello che vogliono è ridursi soltanto a dei numeretti per raggiungere i loro obiettivi finanziari, a scapito della qualità del nostro lavoro e della responsabilità di ogni lavoratore che ha nei confronti dei clienti e dei consumatori. Questo è quello che vogliamo dire oggi. Questo è, senti, ci vuoi... è il motivo per cui siamo scesi in piazza. Ci vuoi riassumere, voi siete lavoratori appunto TIM, ci vuoi riassumere quali sono i motivi che hanno dato poi inizio a questa vostra lotta? Allora, il motivo è semplice. Praticamente il nostro amministratore delegato Cattaneo, il marito della Ferilli, quella che in televisione parlava male del suo boss, il marito lo sta applicando alla lettera in TIM. Praticamente hanno stracciato il contratto di secondo livello, sostituendolo con un regolamento aziendale che non ci permette più di fare il nostro lavoro liberamente, perché è legato a degli obiettivi di produzione. Con il controllo a distanza stanno applicando interamente il Job Act sul nostro settore, il controllo a distanza di ogni singolo lavoratore, cioè il controllo ad personam. Tu vieni valutato e potresti essere licenziato in base agli obiettivi che ti dà l'azienda, che ti dà il tuo capo. E questo va a scapito della qualità del lavoro, della sicurezza, perché è tutto un corri, corri, corri, chiudi il guasto, chiudi l'attività, capito? Inoltre questi tagli ai nostri stipendi, proprio stiamo parlando di circa 300 euro in busta paga, e si sono legati ad un obiettivo del management che riguarda 55 milioni di euro. Cioè, se loro riescono a farci ingoiare sto rosso, il Cattaneo e il suo staff prendono al fine 2017 55 milioni di euro di premio, praticamente. Beh, sulla pelle fondamentalmente vostra. Sulla pelle nostra, cioè a noi ci tagliano per premiare loro. Senti, è un obiettivo legato a questo. C'è stata una risposta appunto, a parte oggi ci stai raccontando tu, ma comunque una risposta enorme da parte di lavoratori e lavoratrici. Finalmente i colleghi si sono resi conto, siamo tantissimi, perché per la prima volta si stanno veramente toccando tutto, ci vogliono togliere tutto, la dignità proprio, soprattutto dopo l'incidente, la morte dei due lavoratori in Sicilia. Quello è il futuro nostro. Se passa questo piano industriale, il futuro nostro è quello. Cioè, un continuo rincorrere degli obiettivi finanziari, usati che stanno dietro ai numeretti che non si decide, non si sa chi, e tu che sei costretto a fare la guerra tra poveri, cioè ai clienti che si devi sbrigare a chiudere le attività e a chiudere i guasti, anche se non hai riparato veramente il guasto, se non hai fatto veramente l'attivazione che dovevi fare. Questo è il futuro che attende. E noi siamo in tanti e stiamo dicendo, ci stiamo ribellando a questa cosa. Abbiamo chiesto ai sindacati confederali di non firmare nulla, e stiamo facendo scioperi da 4 mesi a sta parte proprio per invitarli a non firmare. Cioè, noi non vogliamo trattare al ribasso, ci hanno tolto 3 giorni di ferie l'anno, non vogliamo cederne nemmeno uno. Stiamo chiedendo a CGL e CISL e WIL di non firmare nessun accordo, cioè nessun accordo che riguarda il trattare al ribasso con questa gente. E fino adesso qual è stata la risposta dei sindacati? E allora la CGL ci sta, diciamo, appoggiando dall'esterno, però non si schiera apertamente con questo movimento, perché lo vede un po' come una lotta interna, insomma. In realtà noi abbiamo avuto per adesso soltanto l'appoggio dei sindacati autonomi, i COBAS, i CUB, l'USD, lo SNAR, insomma gli autonomi ci stanno seguendo e ci stanno appoggiando. Abbiamo deciso tutti insieme, per la prima volta si lavorerà ad una piattaforma condivisa, e proporremo una piattaforma alternativa alla trattativa che stanno facendo invece con Federale. Senti, gli scioperi quindi loro non ne hanno mai proclamati su questi temi? Sì, li hanno proclamati, però noi stiamo facendo degli scioperi a sorpresa a fine turno, che fanno più male all'azienda, perché gli interrompe le attività che hanno programmato con gli altri gestori, cioè sono delle, incidono di più. Come tecnici noi abbiamo questa responsabilità, che il nostro sciopero, purtroppo per fortuna, fa più male all'azienda, insomma. Certo, che poi è una lotta che interessa a tutti, perché ovviamente il disservizio poi, certo, che si crea, sì, ricade sull'utenza. Però noi tecnici, appunto per questo, abbiamo la responsabilità di dover scioperare sempre, di non fare nessun passo indietro, perché se sciopera il call center, comunque le chiamate vengono deviate su altri call center, magari altri esterni. Invece se sciopera il tecnico, che al cliente non ci va, quello provoca danni all'azienda. E quindi sono 3-4 mesi che scioperiamo. Insomma, le nostre buste paga le stanno risentendo parecchio. Abbiamo chiesto ai confederali di organizzare una manifestazione di sabato nazionale proprio per questo motivo, e non ci si è affidato nessuno. Abbiamo chiesto ai sindacati autonomi, ci hanno aiutato a organizzare questa manifestazione di oggi. Quando la CGL ha visto che stavano organizzando i team, le navi, i traghetti e gli aerei da tutte le parti d'Italia, ha aderito. Anche la CGL ha aderito a questa manifestazione. Gli RSU hanno fatto un documento importante, per la prima volta nella storia di Telecom, gli RSU si sono dichiarati apertamente a favore di questo movimento e a favore di questa manifestazione, e stanno partecipando come lavoratori singolarmente a questa manifestazione. Senti, dove siete adesso? Adesso siamo in via Cavour, stiamo per arrivare in via Cavour. E finirete dove? A Piazza Venezia. Ci puoi dare un'idea del numero, se ti è possibile, insomma? Guarda, l'ultima volta eravamo 3.000 e adesso mi sembra che siamo molti di più. Quindi secondo me siamo almeno 4.000. Anche perché l'ultima volta era di Roma e del Lazio. Invece adesso è nazionale, visto che sono arrivati colleghi da ogni parte d'Italia, sono partiti questa notte. Ho capito. Senti, rimani un attimo in privato?